The right of people of God to exist. Lies that I comunque sono arrivato a metà del testo, molto più lungo.